Non è mai successo, non si può riflettere, non credere in niente, provando a resistere, cresciuto confuso, cercando rifugio, le mani e i cervelli incollati ai coglioni, gli occhi soltanto per televisioni, cresciuto confuso, coi soldi sul culo. Una briciola di umanità.